come dicevamo, siamo messi in contatto con i compagni dell'Assemblea Permanente contro il Carcere del Friuli. Ci sentite? Sì, eccoci. Ciao. Benvenuti e benvenute. Ciao. Ciao a tutte e tutti. Ciao. Benvenuti. Insomma, come dicevamo prima, insomma, stavamo affrontando il tema della repressione. Prima di chiudere e andarcene in vacanza, anche se poi insomma la resistenza non ci va mai in vacanza, come vedremo anche più tardi. Come nemmeno la repressione, d'altronde. Come nemmeno la repressione, a quanto esatto. Pare, insomma. Infatti, dicevamo, insomma. Tante repressioni sotto il punto di vista delle lotte sul lavoro, del territorio, eccetera, eccetera. Tante cose che fanno anche clamore perché comunque succedono fatti gravi. Però, insomma, le lotte sono veramente tante e molto spesso, insomma, tante possono sfuggire a un occhio non attento. Ma più semplicemente a una confusione mediatica che, insomma, va di qua e di là. E quindi ci faceva piacere darvi spazio per parlare un po' degli attacchi repressivi che ci avete voi dallo Stato che si chiama tale. Sì, no, niente, noi praticamente abbiamo questo gruppo così di anticarcerario e tra l'altro l'approfitto per salutare e mandare un saluto insomma a tutti i detenuti che sono in prigione in questo momento lì anche a Roma, in particolare Anna Beniamino. Insomma, noi ci teniamo a portare avanti questa lotta già da un po' di anni e in particolare è successo sono partiti questi procedimenti penali nel momento in cui noi siamo andati a toccare un po' la questione sanitaria. È successo proprio immediatamente prima che scoppiasse tra l'altro la pandemia e siamo venuti in contatto con alcuni detenuti dentro, siamo entrati in corrispondenza diciamo epistolare e insomma è stato un percorso che abbiamo fatto, siamo andati a fare le prime così volantinaggi, proteste davanti al distretto sanitario, abbiamo incontrato Garante dei detenuti in contratto. Cioè, sì. Diciamo che abbiamo avuto un incontro ecco più che altro con questi diciamo pinguini, il garante e il responsabile sanitario, perché appunto dopo aver fatto questa protesta si sono un po' preoccupati, ci hanno cercato e hanno voluto conoscerci e noi siamo andati là, abbiamo portato le nostre, cioè tutte le problematiche che i detenuti ci avevano qui del carcere di Udine ci avevano indirizzato. In particolare era un discorso di trascuratezza totale, beh, come tutte le prigioni, di trascuratezza a parte dell'igiene e del questioni insomma più basilari dell'affollamento eccetera, ma in più di tutto era questa menefreghismo della dottoressa responsabile che appunto era ed è ancora lì continua le sue lavorare a modo suo e dopo che noi appunto dopo un po' di che eravamo messi in moto questa cosa qua, tra l'altro subito dopo c'è stato un ennesimo morto nel carcere per appunto sempre questioni di sostanze perché comunque era in cura col metadone, certo. E abbandonato lì, certo. Nessuno che lo ha insomma si è curato di lui e alla fine l'hanno portato via insomma come insomma morto e tra l'altro siccome era proprio nelle prime settimane di lockdown non era trapelata la notizia assolutamente sui media così di regime e noi eravamo venuti a sapere la vicenda per insomma attraverso parenti, amici del ragazzo, Ziad si chiamava tra l'altro, e alla fine hanno dovuto anche i giornali insomma pubblicare questa questione e lì appunto è partita la procura, dopo qualche mese hanno cominciato a pestare e sono venuti fuori con queste questi procedimenti di istigazione a delinquere e diffamazione appunto verso la dottoressa. La dottoressa, certo. Sì, allora io sono tra l'altro una imputata per queste vicende e appunto, come è stato detto, quando abbiamo toccato questa dirigenza sanitaria sono saltati i nervi. Per questa faccenda qua della responsabile sanitaria abbiamo in piedi 3 procedimenti, 2 già in giudizio, uno cioè, sono ancora le indagini preliminari, ma insomma andrà in giudizio quasi sicuramente. E per dire anche la sproporzione della reazione, della repressione, per un volantinaggio io ho subito una perquisizione domiciliare dalla Digos, per dire, sì, una roba abbastanza fuori dalla... così sì, allora purtroppo è la norma, purtroppo succede, no, in realtà no, cioè, la cosa, cioè, adesso è la norma, cioè sta succedendo adesso, è una cosa decisamente esagerata, no? assurdo una follia. Va bene, continua, scusami. Comunque sì, sono venuti insomma vabbè a casa mia a rompere i coglioni, però vabbè, e anche addirittura filmando con la direttamente quando sono arrivati, già filmando. Quindi ho dovuto fare un po' di casino per far spegnere la telecamera, insomma, tutta una serie di cose così intimidatorie che poi, vabbè, non ci hanno intimiditi, ma comunque certo. L'intento è sicuramente intimidatorio. E questi procedimenti sono anche, parliamo di diffamazione aggravata, no? Aggravata in quanto sono pubblici ufficiali questi soggetti, e riguardano anche poi la direttrice del carcere di Tolmezzo, che è un carcere di alta sicurezza dove c'è anche una sezione di 41 bis. Noi abbiamo fatto diverse iniziative anche a Tolmezzo, ancora le prime diciamo risalgono al 2012, anno nel quale c'erano dei compagni, c'era un compagno specificamente, per le lotte Notav, un compagno anarchico che l'avevano messo lì, poi l'hanno trasferito a Ferrara, vabbè. E poi comunque ci sono stati anche recentemente nel 2018 e 19, scusate, altri compagni che erano inquisiti, incarcerati per l'operazione Renata. Certo. E quindi abbiamo sempre frequentato, diciamo, combattuto contro anche il carcere di Tolmezzo, e abbiamo sempre portato avanti anche il discorso la battaglia contro il 41 bis, no? Cioè appunto c'è questa sezione di 41 bis anche lì. E, sì. Ecco, poi ci sono stati ulteriori diciamo capi di imputazione, ecco, c'è la diffamazione ma anche l'istigazione contro questi soggetti, perché appunto dicono che noi istighiamo alla loro distruzione di questi personaggi, insomma. Bon. E, oltre a questa cosa qua, l'istigazione poi viene data anche per prese di posizione invece politiche. Nello specifico c'è questa questione, insomma, avremo questo processo a settembre, per aver parlato in una trasmissione radiofonica, tra l'altro, che noi curiamo come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, che si chiama Zardins Magnetics in friulano, che vuol dire, si capisce comunque, giardini magnetici. Bon, in questa trasmissione, che era dedicata prevalentemente alle lotte delle detenute donne, abbiamo parlato in maniera abbastanza dettagliata della vicenda appunto di Barbara Azzaroni, Carla, no? Forse troppo militante di prima linea, ammazzata dalla polizia a Torino nel 79. Esagerato. Eh? La procura forse avete esagerato, forse per troppo dettagliato, troppo nei dettagli. Già. Troppo dettagliato, solo che vabbè, la procura, perché stanno lì con l'orecchio, perché loro tra l'altro, cioè, nel campo di imputazione c'è scritto che è stato detto Barbara era una di noi, che è una frase di una canzone appunto dei Contrasto, questa band HC. Non so se la conoscete, se avete modo di mettere anche la canzone, insomma la canzone si intitola c'è qualcosa in me che è più vecchio di me. Sì, e parla appunto di questa vicenda qua, E noi avevamo preso spunto da questa, anche da questa canzone, per approfondire tirando fuori articoli vari anche della Paola Saccioli, che tra l'altro la compagna, che tra l'altro non c'è più. E quindi io penso che proprio abbiamo fatto una ricostruzione storica, visto che si parla del 79, non vedo dove ci possa essere un'istigazione di un fatto già la memoria avvenuto, come sappiamo, tra l'altro. È la memoria, è esatto. Coltivare la memoria, abbiamo imparato purtroppo che in questa parte di mondo è rischioso, alcune volte anche in maniera molto grave, come sta succedendo a voi. È evidente che questa è diciamo è una scusa chiaramente per affondare i denti su chi si muove insomma in direzione costantemente, certo. Ostinatamente anche, contraria. Ma anche per chi si interessa e si avvicina a questa roba qui, no? Assolutamente, è un deterrente nello stesso tempo, oltre che essere un atto repressivo per chi lo subisce, è un deterrente per chi osserva queste misure spropositate rispetto a quello che nei fatti succede. Il punto è che evidentemente queste lotte, seppur colpite in maniera evidentemente molto grave, colpiscono nel centro. È chiaro che queste lotte, per essere così represse, per essere così colpite, devono avere qualcosa che... Devono essere zittite. Esatto, devono avere qualcosa che va davvero a scavare, a fare male al sistema. Evidentemente i compagni e le compagne che portano avanti queste lotte sanno qual è il prezzo di questa, diciamo, di questa precisione nei dettagli, come dicevamo prima, appunto. Evidentemente è proprio questo il punto. Tra l'altro, una cosa che mi viene in mente, che secondo me incide anche... E noi come gruppo collettivo siamo, cioè c'è una componente anarchica, diciamo, ma anche una componente comunista, rivoluzionaria, e c'è questa solidarietà, diciamo, tra le varie componenti, non ci sono, e quindi anche una cosa un po' che in questo territorio molto. Qui, specifico del Friuli, spiazza un po', no? È cioè, fastidioso, c'è questa trasversalità, certo. Diciamo. Dico, è fastidioso, come no? Fastidio sta roba qua, secondo me dà fastidio che appunto non ci siano divisioni, insomma ci sia un obiettivo comune, che è quello appunto della lotta contro il carcere, contro la repressione, e non ci sia assolutamente lo stigma verso i prigionieri rivoluzionari, ma anzi insomma ci sia piena solidarietà verso i prigionieri e le prigioniere rivoluzionarie, sia comuniste e comunisti, sia anarchici e anarchiche. Questa cosa è importante e secondo me dà fastidio anche questo aspetto qua, insomma. Aspetta, vediamo se ci fa. E questa è un'esperienza che, tra l'altro, perdonami, è un'esperienza che non è l'unica, cioè quello di cui parli tu non è l'unica. Questa unione, diciamo, tra anarchici e comunisti rivoluzionari è un qualcosa che insomma mi vengono in mente già un altro paio di esempi. Uno in Abruzzo, insomma, nella mia terra, Giulianova, col campetto occupato, con il fronte antifascista, insomma, c'è tutta una situazione di unione tra compagni di varia natura. Ma la stessa Radio Onda Rossa è così, quindi insomma Radio Onda Rossa è un crogiolo, insomma, un po' di queste sensibilità rivoluzionarie, insomma, che si fondono. È importante ed è verissimo, confermo proprio a piene mani, a piena voce, quello che dice la compagna. Questo è un problema per le guardie, è un problema per la politica istituzionale dove questi luoghi operano. Perché la politica si scaglia in maniera violentissima contro queste esperienze, perché oltre ad avere una base numerica relativa, perché poi dipende dal contesto dove operano, ma hanno un valore politico potentissimo, sì, è grosso. Nell'elaborazione, quindi sì. Anche una capacità di interfacciarsi, esatto. Poi con quelli che è pericoloso. Cioè, nel senso, con quelli che poi non votano, appunto, come dicevamo prima. Esatto, perché poi il non voto è diventato una porzione ampia dello scenario. Cresce sempre di più, no? È per questo sarà pure questo. E quindi, insomma, ma poi spesso comunque noi per esperienza abbiamo visto che anche i detenuti, diciamo, cosiddetti comuni, si va a pescare alla fine nel proletariato. Sono certi, insomma, che entrano e escono dai quartieri popolari, cioè dal quartiere popolare della città, perché qua è una città piccola, comunque è un carcere giudiziario, la provincia ha 500.000 abitanti, non so, per darvi un'idea, però comunque insomma la maggior parte dei detenuti sono o stranieri o appunto persone che abitano nei quartieri popolari di Udine, eh. Non è che, cioè, quindi comunque è una cosa destabilizzante lo stesso per le autorità, per il potere, insomma, dover gestire questa seccatura di appunto anche comunque minoritaria, ma di nostro insomma solidarietà, appoggio alle lotte, a quelli che scelgono di lottare, insomma, di ribellarsi a non subire tutto quello che appunto lo Stato a cui li sottopone. Ecco. Sì, esatto, è la solidarietà attiva quella che crea problemi. Sì. È questo, perché la solidarietà fino a se stessa, sì, allo Stato può dar diciamo fastidio in forma teorica, però quando la solidarietà diventa attiva e quindi si occupa e si interessa dei fatti e va a fondo, ecco che diventa un grosso problema. Quindi noi speriamo che questa esperienza non venga frenata da questa onda repressiva, l'ennesima onda repressiva che si manifesta. Abbiamo la testa abbastanza dura. Ecco, infatti. Una cosa positiva che la risposta dei detenuti e delle detenute, siamo andati anche tantissime volte a Trieste dove c'è anche una sezione femminile, è sempre molto calorosa, molto intensa, certe volte anche oltre le nostre previsioni, diciamo, c'è sempre stato tantissima risposta, insomma, e a tutti i presidi che abbiamo fatto, e poi appunto, come diceva il compagno prima, la corrispondenza, e, insomma, questa è una cosa che cioè, è una cosa sentita, non è una cosa così puramente ideologica, è una cosa sentita, concreta, e quindi questo è molto importante. E, sì, sì. Ecco, io dico un'ultima cosa, la questione dell'unione, diciamo, dell'unità tra anarchici, anarchici, comunisti e comunisti, si vede anche dentro le galere, no? Perché comunque ci sono queste dinamiche di solidarietà anche dentro le galere. E ricordo, ad esempio, mi fa piacere ricordare la posizione, ad esempio, della Nadia Lioce, quando le compagne anarchiche erano state detenute all'Aquila, diciamo in alta sicurezza, ma in realtà si trattava di praticamente del 41 bis travestito da alta sicurezza, e loro avevano fatto questo mese di sciopero della fame, insomma ci sono state diverse mobilitazioni in tutte le carceri italiane. Anche la Nadia Lioce aveva dato solidarietà, per dire, robe, cioè una persona così che è lì da un casino di tempo ha comunque la forza e anche la lucidità di prendere subito posizione, insomma, su questa roba. Sì, sono robe molto importanti, e anche a Terni comunque convivono in alta sicurezza prigionieri politici anarchici e comunisti, convivono, insomma, quindi è una roba importante anche questa. E sì, non so, chissà che ne penserebbe Malatesta di tutto ciò, chissà che direbbe Malatesta, boh. chissà. No, io ci tenevo anche, appunto, prima il compagno ha salutato, cioè ha mandato un saluto a tutte le persone detenute che possono essere in ascolto, insomma, Roma è grande, magari c'è la possibilità che delle persone imprigionate ci ascoltino. E questo saluto anche particolare ad Anna Beniamino, si volevo appunto ricordare, perché in questo momento qui è importante non lasciar perdere assolutamente la vicenda di Anna Beniamino, Alfredo Cospito e anche Juan Sorroche, i tre compagni, appunto, che, vabbè, Anna e Alfredo rischiano addirittura l'ergastolo, non in quanto gli è stata strage politica, per l'accusa, insomma, di aver messo un ordigno a una caserma dei carabinieri a Fossano, e poi, vabbè, loro comunque hanno tutta questa faccenda dell'operazione scritta Manent, e Alfredo appunto è stato messo al 41 bis dal 5 maggio proprio perché non ha mai smesso, quando era in alta sicurezza, non ha mai smesso di tenere i rapporti con il movimento anarchico, e quindi scambiare, discutere, scrivere, eccetera. E quindi una cosa, un attacco violentissimo da parte dello Stato, appunto, per zittire, per seppellire vivi una persona, appunto, che non ha mai mollato. E anche Juan Sorroche, appunto, c'è stato appunto da pochi giorni la sentenza, insomma, di primo grado, che lo condanna a 28 anni di carcere. Praticamente le richieste del PM sono state accolte senza colpo, cioè proprio neanche completamente, e per questo presunto attacco terroristico contro la sede della, cioè viene definito attacco terroristico, è un danneggiamento in verità di una sede della Lega di Villorba di Treviso, appunto. Sì. E sì, in questo momento qui è importantissimo, perché questa cosa è una roba senza precedenti, veramente senza precedenti rispetto all'effettività, cioè ai fatti, diciamo, che vengono imputati, queste misure, insomma, repressive. E quindi è importante non mollare, cioè continuamente dire, ricordare, anche perché non se ne parla minimamente. Esatto. Da nessuna parte, a parte i canali di movimento, diciamo, ma di questa faccenda qua non si parla assolutamente fuori dal nostro, certo, sì, dal nostro giro, no, diciamo. Infatti è proprio quello che dicevamo prima sul... nei posti dove va la gente normale. Esatto, è quello che dicevamo prima, nel senso molto spesso, insomma, non arrivano alle orecchie certi tipi di repressione, e invece è importantissimo dargli voce e soprattutto sta vicino a chi sta dietro alle sbarre. Sì, è importantissimo, sì, anche per cambiare l'immaginario, perché io non credo che si tratti solo di dare testimonianza di quello che accade, cioè di dare testimonianza che a un compagno vengono inflitti 28 anni di carcere, perché noi purtroppo viviamo in un paese che naviga nel post-fascismo, è un paese che naviga nell'intolleranza e nella paura. Di conseguenza noi corriamo pure il rischio che l'opinione pubblica sia d'accordo con misure del genere. Io invece credo che bisogna con forza testimoniare sempre di più per cambiare l'idea e l'immaginario che le persone hanno della lotta politica, perché questo è il punto. Noi dobbiamo avere il coraggio di parlare in maniera concreta, vera, non solo di dire guardate cosa ci fa lo Stato, ci dà 28 anni di carcere, no, per le nostre, no, guardate cosa fa lo Stato perché noi portiamo avanti le nostre battaglie e facciamo rumore, diamo veramente grosso fastidio allo Stato. Ecco qual è il problema. Non è il problema il petardo, il danneggiamento della Serranda che viene dipinto come una strage politica. Così chiama il campanello. Esatto, certo. Il problema non è, perché magari se tu chiedi al primo che passa, magari ti dice pure che è d'accordo con 30 anni di carcere per uno che fa una strage politica. Certo. Però se gli racconti che quello è un petardo, che dietro quel petardo c'è un'elaborazione politica, che c'è un motivo per cui si fa un certo tipo di lotta politica, probabilmente il paradigma cambia, muta. Ci vuole tempo, è difficile, è fastidioso, è complicato, però ci vuole coraggio. I compagni e le compagne in questo caso lo dimostrano quotidianamente. E non solo in Friuli, non solo a Tolmezzo, insomma, che per quanto riguarda me che sono abruzzese, Tolmezzo è una città mitica, perché è dove si andava a fare il militare, capito? Tu partivi dall'Abruzzo, andavi infatti il Friuli è tutto una servitù militare praticamente, esatto, immagino, perché là confini, insomma, e quindi caserme, robe del genere. Da noi Tolmezzo era il posto dove faceva freddissimo, un posto lontanissimo, qualcosa di raggio, dice, sono andato a Tolmezzo. No, in realtà è una montagna bellissima, immagino, bellissima, esatto, purtroppo molestata da sbirri vari, ma una montagna bellissima. Sì, infatti questo siparietto, perché appunto I miei genitori, noi negli anni 60, 70, 80 il militare a Tolmezzo eri un grande, eri andato all'estero praticamente, certo, cioè era andato, certo, sì, col colbacco praticamente. Certo. col colbacco. Esattamente. Va bene, grazie. Noi vi liberiamo da questa tremenda. Sì, come dicevamo prima, insomma, ci dispiace di avervi fatto di avervi dato questo accollo di domenica pomeriggio. Mancherebbe. Terribile, davvero, siamo terribili, però noi vi ringraziamo per quello che ci avete detto e per quello che continuate a fare nel quotidiano. Quindi noi vi salutiamo e veramente ci risentiremo prestissimo. Bene. Grazie a voi della disponibilità. Grazie a voi. Un abbraccio, ciao. Ciao.